TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Coldiretti Udine celebra oggi la 75esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo, evento di origini antiche riscoperto da Coldiretti e inserito nel calendario liturgico. Torna con l'edizione autunnale il terzo Festival delle Dimore Storiche, 17 le strutture private ancora oggi abitate che in questa domenica aprono le porte con i proprietari a fare da guida e a raccontarne storia e caratteristiche architettoniche, ma anche aneddoti e curiosità. 3 anni dopo, di nuovo Italia, l'Australia cade per la seconda volta, sconfitta per 26-19 dopo una partita di rugby giocata a ritmi altissimi allo stadio Friuli di Udine davanti a oltre 23.000 spettatori entusiasti. E per il calcio, oggi l'Udinese ospite della Roma allo Stadio Olimpico. La Triestina giocherà a Vercelli nel basket, impegni in trasferta per Trieste, Udine e Cividale nella pallanuoto, doppio successo delle formazioni giuliane. Le 12 e 16 minuti in questo istante, buona domenica da Giorgio Bearz. Coldiretti Udine celebra oggi la 75esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo, un evento che ha origini antiche, che è stato riscoperto da Coldiretti e inserito nel calendario liturgico. Questa mattina nel Duomo di Latisana si è tenuta la Santa Messa presieduta da Monsignor Carlo Fant, presenti i vertici della Coldiretti regionali. A seguire la benedizione dei mezzi agricoli, il saluto dell'autorità e un momento conviviale. La terra ha dato i suoi frutti, è il momento per gli agricoltori di ringraziare e di chiedere la benedizione per l'anno che verrà. Alla tisana la festa di Coldiretti Udine, la 75esima, che ha messo in evidenza il numero dei prodotti di eccellenza del comparto friulano all'interno di un settore, l'agroalimentare regionale, che fattura 3,9 miliardi all'anno, con il record storico di esportazioni nel 2021, 1,1 miliardi. Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, stando ad una recente indagine, è al secondo posto in Italia per il valore della produzione di vino certificato, 818 milioni, mentre il San Daniele è il secondo prodotto a base carne su 43 per valore della produzione. Il Montasio è l'ottavo formaggio per valore della produzione e quarto a pasta semicotta su 56. Nello specifico del San Daniele, il fatturato totale è stabile, 360 milioni di euro, con un'esportazione del 19% in aumento di 2 punti percentuali sull'anno precedente. Si consolidano così i principali mercati esteri, come Francia, Germania, Stati Uniti e Australia. La produzione annua intorno alle 2,6 milioni di cosce, provenienti da una filiera DOP 100% italiana, si svolge esclusivamente nei 31 stabilimenti di San Daniele del Friuli. La tisana, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: c'è stato un incidente stradale la notte scorsa sulla strada regionale 464 nei pressi della rotonda di Coseano, dove un'autovettura si è capottata in un fosso profondo. Alla guida un uomo di 37 anni che è stato egli trasportato in codice giallo all'ospedale di Udine. E c'è stata una moria di cigni lungo le coste di Grado e Lignano. Il Corpo Forestale Regionale ha raccolto 11 esemplari, in particolare concentrati nella zona del Lido delle Conchiglie. Da tempo il Servizio Veterinario della Regione ha diramato delle comunicazioni su possibili focolai di influenza aviaria. Grado non è l'unica località colpita. In settimana il personale della stazione forestale di Cervignano aveva ricevuto la segnalazione di 3 cigni morti, questa volta lungo la battigia della spiaggia di Lignano. Il Corpo Forestale segnala che potrebbero esserci molti altri esemplari morti nella zona e quindi raccomanda agli escursionisti di non toccare gli animali. Torna con l'edizione autunnale il terzo Festival delle Dimore Storiche, 17 le strutture private ancora oggi abitate, che in questa domenica aprono le porte con i proprietari a fare da guida e a raccontarne storia e caratteristiche architettoniche, ma non solo, anche aneddoti e curiosità. 13 sono in provincia di Udine, 2 in quella di Gorizia, 2 nel Pordenonese. L'elenco sul sito internet dedicato al festival. Le dimore partecipanti ospitano anche stand per la vendita e la degustazione di prodotti tipici del territorio. Sentiamo un esempio con la voce di Alberto Asquini, proprietario della casa omonima a Fagagna. La casa che oggi è aperta al pubblico, che cosa racconta, che storie racconta? Allora, la casa racconta parecchio della storia di Fagagna, e non solo di Fagagna, diciamo, contiene tutta la storia della grande imprenditoria del Settecento in Friuli, rappresentata dal conte Fabio Asquini, che fu il personaggio di spicco di quel periodo, e poi racconta la storia anche della comunità locale, che si sviluppa, diciamo, dal Cinquecento fino alla caduta della Repubblica Veneta. dove poi le liti tra nobili e popolari hanno trovato un cambiamento importante con la vendita dei terreni comunali, che hanno un po' rovesciato i rapporti di forza che esistevano fino allora nelle comunità locali. E poi ci sono anche i quadri di Antonio Zanon, collaboratore della Squini, che era il suo agente commerciale a Venezia, i quadri di Basilio Asquini, che è stato il rettore della scuola dei Barnabiti, quella che c'è in piazza Garibaldi a Udine. Ci sono le pitture morte di quel pittore torinese che ne ha dipinte tante, che è morto qui a Fagagna nel 1715. C'è la cappella al secondo piano, dove, che è ancora consacrata e dove ogni tanto si fanno anche dei rosari. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo in questa bella domenica di novembre. Il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 15 gradi e 5 decimi, a Gorizia, Pordenone e Udine 14 gradi, a Forno di Sopra e Tolmezzo 8 gradi, a Piancavallo 7, a Sappada 6 gradi, sul Monte Zoncolan 5 gradi, sul Monte Lussari 4 gradi e mezzo. Sulla costa Lignano 13 gradi e 5 decimi, a Grado 13 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con il passaggio di qualche velatura. Domani cielo in prevalenza sereno con il passaggio anche qui di qualche velatura. Di primo mattino sulle Alpi Giulie sarà possibile locale nuvolosità. Sulla costa soffierà vento di bora moderata, poi in calo nel pomeriggio. Il distretto del commercio Friuli Orientale promuove in questa domenica un incontro a Villa De Brandis di San Giovanni a Natisone in occasione della giornata mondiale dell'enoturismo. Visioni e proposte per l'enoturismo del Friuli Venezia Giulia, il titolo dell'appuntamento, che intende aprire un dialogo per costruire un modello di sviluppo in cui il vino sia leva di attrattività e coesione sociale. Partecipano amministratori locali dell'area ed esperti. Oggi premiamo le eccellenze del nostro territorio che hanno presentato progetti importanti per lo sviluppo e l'ambiente. Ci auguriamo che le buone pratiche portate avanti da istituzioni, aziende, terzo settore ed enti di ricerca possano essere replicabili non solo in Friuli Venezia Giulia, ma anche al di fuori dei confini regionali. Sono questi i concetti condivisi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, sul palco del Teatro Verdi di Trieste in occasione della cerimonia di consegna del premio Friuli Venezia Giulia Green, istituito dalla Regione tramite la Direzione Ambiente per valorizzare le best practice in campo ambientale, economico e sociale nel territorio regionale. Ha preso il via questa mattina al Teatro Verdi di Trieste il nuovo ciclo delle lezioni di storia promosso dagli editori La Terza, che prevede 5 incontri da oggi al 25 gennaio dedicati agli eventi e alle idee del Novecento. La lezione odierna è dedicata al genocidio degli armeni del 1915, quando la dirigenza più nazionalista dei giovani turchi decise di eliminare dall'Anatolia la minoranza armena. Relatore è Marcello Flores, che ha insegnato storia contemporanea alle università di Trieste e Siena. E siamo allo sport, cominciamo oggi con il rugby. 3 anni dopo di nuovo Italia, l'Australia cade per la seconda volta, sconfitta per 26-19 dagli azzurri dopo una partita giocata a ritmi altissimi allo stadio Friuli di Udine davanti a oltre 23.000 spettatori entusiasti. La festa del rugby di Udine passa per il sinistro fatato di Paolo Garbisi. Il mediano di apertura del Tolone non ne sbaglia una tra calci di punizione e trasformazioni. Tiene a galla l'Italia nel primo tempo, quando l'Australia alza il ritmo e va in meta due volte, e poi la chiude nella ripresa trasformando le mete azzurre. La prima punizione è realizzata dopo 5 minuti di gioco, la seconda dopo una mischia, altri 6 minuti dopo. L'Italia va sul 6-0, ma subisce il ritorno dei Wallabies, che trovano la prima meta con Fassler, di nuovo in fase di mischia, senza riuscire a trasformare. Alla mezz'ora un'azione simile frutta agli ospiti la meta del vantaggio, siglata da Bell con Callaway che dal centro non può sbagliare la trasformazione. L'Italia potrebbe sbandare, ma c'è Garbisi a trasformare un nuovo calcio di punizione e a fissare il punteggio sul 12-9 con cui finisce il primo parziale. Ed è di nuovo Garbisi in apertura di ripresa a firmare il pareggio con un'altra punizione, stavolta da posizione particolarmente defilata. L'Australia mette di nuovo la testa avanti con una nuova meta siglata da Gordon, abile a scappare via alla difesa azzurra. A quel punto l'Italia piazza le zampate decisive. 2 mete, prima grazie ad una strepitosa giocata di Lineag, poi grazie ad uno scatenato Montioni che trova il varco giusto per oltrepassare la linea. Manco a dirlo, Garbisi le trasforma entrambe e fissa il punteggio punteggio sul 26-19 per la gioia dei 23.000 contanti giovanissimi che hanno affollato lo stadio Friuli. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il calcio in Serie A l'Udinese sarà di scena oggi alle 18 allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma di mister Gasperini, seconda in classifica, e per continuare la striscia positiva. In Serie C la Triestina sarà impegnata in trasferta affrontando la Pro Vercelli con inizio alle 14.30, cercando di ricominciare a fare i punti dopo le due sconfitte consecutive rimediate da quando l'allenatore Tesser è ritornato sulla panchina alla Bardata. Per il basket in Serie A1, due trasferte per le formazioni regionali. La Pallacanestro Trieste giocherà sul difficile parquet di Brescia alle 16, mentre la Pudine sarà di scena a Cantù con palla 2 alle 20. In Serie A2 trasferta anche per la Gesteco Cividale a Roseto. Pallavolo in Serie A2 femminile, le ragazze della Talmassons giocheranno sul parquet di Padova alle 17. In Serie A2 maschile, il Prata Pordenone sarà in trasferta a Padova con inizio alle 17. Per gli spettacoli, una superstar della danza di scena oggi al Giovanni da Udine, Natalia Osipova, fra le danzatrici più celebrate dell'epoca moderna, sarà protagonista alle 18 di un evento unico nel suo genere, Force of Nature, in cui l'artista sarà affiancata da solisti provenienti dalle più celebrate compagnie di ballo del mondo, rinomata per la sua tecnica impeccabile e le sue dinamiche interpretazioni. In oltre 25 anni di immutato successo, Osipova ha esplorato e reinterpretato la danza con il suo stile personalissimo e ora per la prima volta sarà ospite del palcoscenico friulano. Massimo Bernardini, giornalista e autore, il vincitore dell'11ª edizione del premio Pordenone Musica istituito dal Teatro Verdi di Pordenone. La consegna del riconoscimento in programma alle 18 al Teatro Verdi con un incontro concerto che vedrà Bernardini guidare l'ascolto dei brani più iconici del repertorio di Chopin suonati al pianoforte dal maestro Alessandro Taverna. Alcuni appuntamenti: al Museo Sartorio di Trieste si esibirà un duo composto dal soprano croato Tamara Ivanic Zaplatic e dalla pianista slovena Sasha Schulz Dejanovic. In programma brani di Edvard Grieg, dal Peer Gynt di Gustav Mahler e di altri autori di varie età alle 17. Primo appuntamento della stagione San Vito Musica curata dall'Accademia d'Arti a Rigoni alle 17 all'Auditorium Comunale di San Vito. Violinisti Pavel Vernikov e Svetlana Makarova e il flautista Tommaso Benciolini si esibiranno nel concerto Vento dell'Est, dedicato a compositori contemporanei provenienti da Georgia e Ucraina. A Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'apertura della stagione di danza, con lo spettacolo di Natalia Osipova alle 18, l'organista e musicologo Leonardo Carrieri, nel Duomo di Udine alle 17, proporrà un programma dedicato alla musica organistica spagnola e inglese, e nella Chiesa Evangelica Luterana di Trieste, l'organista tedesco Martin Rost si esibirà in un ricercato programma sulla musica di Bach alle 17, mentre l'associazione musicale Sergio Gaggia organizza il concerto Figli di un Sol Minore, con un quintetto internazionale, e allora di Villa Lovaria a Pavia di Udine, su note di Mozart e Brahms alle 17. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.